Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Fatica conclusa, grazie per l'attenzione, grazie a Walter per la regia, l'appuntamento è rinnovato a voi tutti per domenica prossima alla medesima ora. Buona settimana.